Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti parte la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria ne stanno parlando tutti, pubblicità, dovunque, in radio, nei giornali. E mi riferisco chiaramente alla privatizzazione delle Poste Italiane oggi presentata, ne parleremo anche noi più avanti. Privatizzazione, per meglio dire quotazione in senso stretto, perché l'offerta pubblica sarà sul 38% e mezzo del capitale, di cui però solo il 30% sul totale sarà destinato al retail, quindi ai risparmiatori. Però chiaramente in questo modo la quota di controllo del Ministero del Tesoro scenderà in maniera sensibile, visto che adesso è al 100%. Forchetta di prezzo tra i 6 e i 7 euro e mezzo per azione. Lo Stato incasserà tra i 2 miliardi e 7 e 3 miliardi e 700 milioni di euro, a seconda di quello che sarà il prezzo scelto nel finale per il collocamento. Il roadshow che è in corso si concluderà il prossimo 22 ottobre per presentare le Poste agli investitori. Quotazione o il 26, lunedì 26 ottobre o martedì 27 ottobre. Tra l'altro una quota sarà riservata ai dipendenti, sono 15 milioni di azioni su 453 milioni di titoli messi sul mercato, e vi sarà un bonus del 5% per chi terrà le azioni per almeno un anno, e il dividendo sarà non meno dell'80% degli utili registrati nell'esercizio 2015-2016. E questo per quello che riguarda le Poste Italiane. Parleremo anche del Nobel all'economia, che è stato assegnato, lo faremo nella seconda ora, scusatemi, nel programma, ma subito vi faccio ascoltare il commento su questo, sui 100 secondi di Radio 24 e Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. È andato allo scozzese Angus Deaton, nato a Edimburgo nel 1945, attualmente è professore di economia e affari internazionali alla Woodrow Wilson School of Public International Affairs e al Dipartimento di Economia di Princeton. È un Nobel particolarmente così popolare, se mi fate passare il termine, perché non si riferisce a studi di econometria o altre cose, si riferisce agli studi che ha compiuto appunto Deaton in questi anni sul rapporto tra povertà, welfare e consumi, quanto mai attuale quindi come Nobel, come ci raccontano appunto i 100 secondi oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Dopo 10 anni costellati di crisi finanziarie, tracolli bancari, la più lunga recessione globale della storia, il premio Nobel 2015 per l'economia non poteva che andare a uno studioso di consumi, povertà e welfare. L'economista Angus Deaton è nato ad Edimburgo e insegna ora a Princeton, negli Stati Uniti, il paese che ospita più accademici stranieri a livello mondiale e che anche per questo si aggiudica ogni anno la gran parte dei premi Nobel. Il Nobel 2015 è stato assegnato a Deaton per i suoi studi su tre aspetti dell'economia: come i consumatori distribuiscono la spesa su prodotti diversi, quanto di ciò che guadagna la società viene speso e quanto risparmiato, qual è il modo migliore per valutare e analizzare il benessere e la povertà. Deaton ha realizzato un modello di domanda quasi ideale che serve per stimare come la domanda per ogni bene dipenda dai prezzi di tutti i beni e dal reddito dei singoli individui. Il sistema è diventato uno standard per la valutazione dei diversi parametri economici ed è usato ancora oggi per valutare l'efficacia delle politiche economiche dei governi. Il professore ha anche formulato quello che è noto come il paradosso di Deaton, basato sull'osservazione dell'eccessiva regolarità del consumo di fronte a shock inattesi del reddito permanente. In sostanza, oltre una certa soglia di reddito, l'attitudine ai consumi non cambia. Nel 2009 Deaton ha scoperto che oltre la soglia dei $75,000 la felicità delle persone non aumenta perché diminuiscono i desideri da pagare. I modelli matematici non mentono, ma vista la congiuntura ancora debole e l'esercito di disoccupati, soprattutto tra i giovani, l'equazione da risolvere non è come spendere i soldi e vivere felici, ma come trovare un lavoro e arrivare a quella soglia dei desideri che per molti resta ancora un miraggio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora parleremo di questo, parleremo della quotazione delle Poste italiane chiaramente, e anche della manovra finanziaria o legge di stabilità, come si chiama in gergo adesso. Nel senso che giovedì arriverà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare via libera alla legge di stabilità. L'impatto della manovra intanto è salito a 28 miliardi dai 17-18. Cercheremo di capire tra poco, so che sembra un po' banale, se, ma le coperture dove sono? Andando avanti con le notizie in breve, invece, un'anticipazione sulla borsa che sta per chiudere. Allora, il calo oggi a Milano è dello 0,80%. Meglio fa Francoforte più 0,21%, Parigi meno 0,30%, Londra invece perde l'1%, il Dow Jones guadagna lo 0,12%. Euro su dollaro a 1,1358, tra i titoli segnalo che va bene UbiBanca più 1,60%, Fiat Chrysler più 1%, Campari più 0,80% come Tod's ed Exor. Invece negativa Finmeccanica del 4,36%, il Monte dei Paschi del 3,80%, Mediaset meno 3,40%, Prismian meno 3,20%, Saipem meno 3%, ancora tra chi perde intorno al 3%, cito anche Azimut meno 2,80% come Telecom e Italia. Su Finmeccanica pesano delle voci, delle indiscrezioni sulle indagini della Commissione Europea sul settore aerospaziale. Su Mediaset devo dire che il titolo comunque ha guadagnato il 30% da inizio anno, per cui ci sono dei giudizi scettici degli analisti sull'andamento del titolo nei prossimi mesi. E invece per UbiBanca, UbiBanca sta festeggiando via libera la trasformazione in SPA, è la prima delle banche popolari che devono farlo entro gennaio, ma la borsa apprezza più del 60% in controtendenza con tutti gli altri titoli bancari. Nel frattempo, visto che restiamo sull'economia internazionale ancora per qualche istante, continua l'offerta a colpi di rilancio della InBev per la terza volta su Saab Miller. Stiamo parlando dell'operazione che dovrebbe portare alla creazione del colosso mondiale nella produzione di birra, ma non solo. Adesso InBev ha alzato l'offerta per la terza volta, ripeto, a 43,50 sterline, il che vuol dire che è pronta a spendere 103 miliardi di dollari per comprare Saab Miller. Faccio notare che le tre proposte precedenti sono state tutte e tre rifiutate, vediamo se questo terzo rilancio potrà ottenere esiti diversi. Vicenda Volkswagen, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il voto di Volkswagen da ad A meno da A, ha mantenuto un giudizio negativo sul futuro come andamento del credito. A nostra opinione, scrive Standard & Poor's, Volkswagen ha dimostrato importanti deficienze nel management, nella governance e nella cornice generale della gestione dei crisi, anche secondo la nostra molto più modesta opinione. Ci sono stati un po' di problemi di governance, mettiamola così. Intanto l'ex numero uno di Volkswagen, Martin Winterkorn, quello che si è preso 60 milioni di euro per andarsene, no, lo dico perché su questo poi a nostro avviso si sono innescate anche molte delle polemiche, difficile giustificare per quanto tutto legale, tutto previsto dagli accordi, ma insomma giustificare una buona uscita del genere. Comunque lascerà tutti gli incarichi ricoperti nel gruppo dell'auto, per cui lui si è già dimesso dal ruolo di numero uno, però è presidente dei consigli di sorveglianza di Audi e Porsche, quindi mollerà anche quegli incarichi. Ancora per quello che riguarda invece l'Italia, è di poco fa, meno di un'ora fa, la notizia che, e questo riguarda i contratti, il dato è fornito dall'INPS. Allora, nei primi 8 mesi del 2015 ci sono stati 320.000, sono 319.000 contratti a tempo indeterminato in più rispetto ai primi 8 mesi del 2014. Tra l'altro, da questo punto di vista, i nuovi contratti a tempo indeterminato nel settore privato sono stati 90.000 in più delle cessazioni. A queste, che quindi sono nuovi contratti, vanno aggiunte le trasformazioni. Quindi, stando ai dati dell'INPS, abbiamo avuto 90.000 contratti nuovi a tempo indeterminato e il restante, e quindi 230.000, sono trasformazioni di contratti già esistenti, magari a tempo determinato, magari a progetto, in tempi indeterminati. Sempre l'INPS fa sapere che nei primi 8 mesi dell'anno sono stati quasi 800.000 i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con la fruizione dell'esonero contributivo. Vedete come mai cifre così diverse? No, la prima cifra va a vedere la differenza rispetto a un anno prima, e quindi sono 319.000, di cui 90.000 contratti nuovi e gli altri trasformazioni. La cifra che ho appena letto di 790.000 si riferisce a tutti i rapporti accesi, ma non fa il saldo con quelli invece cessati, a tutti i rapporti accesi con la decontribuzione da inizio anno, che sono appunto 790.000. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa anche notare che c'è stato un calo ad agosto del 6,5% delle partite IVA, e secondo il Ministero questo è dovuto al fatto che si è preferito assumere a tempo indeterminato e quindi far venire meno le cosiddette finte, o parzialmente far venire meno le finte partite IVA, quelle che venivano accese solo per ma mascheravano di fatto un contratto a tempo determinato, addirittura indeterminato. Per cui da questo punto di vista, secondo il Ministero dell'Economia e alle Finanze, il calo significativo del 6,5% delle partite IVA è dovuto al fatto che gli imprenditori o chi assume abbiano preferito il contratto a tempo indeterminato. Un'ultima notizia e poi parliamo della legge di stabilità. Allora, c'è stato un nuovo record, io lo dico con la massima soddisfazione, perché così come abbiamo fatto le puntate prima dell'Expo chiedendoci gli anni prima a che punto era e se si sarebbe riusciti a recuperare i ritardi, siamo contenti che l'Expo sia un successo. Lo dicevamo anche in diretta da lì, non ci si può sempre lamentare adesso troppe ore di coda, però se non ci fossero state le code avremmo detto l'Expo è un flop. Insomma, è stato un successo di pubblico. Poi uno può dire perché è una par che non si parlava della sostenibilità, quello che volete, però non si può sempre vedere la parte mezza vuota, ammesso che sia mezza vuota. Sabato c'è stato un nuovo record di ingressi, 272.000 ingressi in un giorno solo, che ha battuto il record dello scorso 26 settembre, che quando furono 259.000. È stato anche il record dei dati settimanali, tant'è che l'affluenza la settimana scorsa è stata complessivamente di 1.243.000 persone. E devo dire che è incredibile vedere come proprio adesso che mancano pochi giorni, noi abbiamo iniziato proprio oggi nei GR della mattina, dalle 7, il viaggio per vedere, fare un punto su questi quasi 6 mesi di Expo, ma dicevo proprio nelle ultime settimane si stanno toccando i picchi, probabilmente chi non c'è stato o c'è stato solo una volta sta tornando o vuole vederlo per almeno per una volta. Fatto sta che i numeri sono impressionanti: 142.000 persone lunedì scorso, martedì 130.000, mercoledì 156.000, giovedì 150, venerdì 180.000, sabato 270 e domenica 212.000 persone. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, primo tema della puntata verso la legge di stabilità, con la notizia che insomma l'impianto della manovra, cioè quanto vale questa manovra, sta lievitando in maniera anche molto molto decisa. La legge di stabilità, che poi è quella che una volta si chiamava finanziaria, che in passato la legge finanziaria, il gioco era: vediamo quali tasse aumentano questa volta. La domanda era: che cosa ci aumentano? Dov'è adesso che arriva? Vediamo dove arriva la fregatura. Da quando ci siamo noi, con tutti i nostri limiti, che sono tanti, i nostri difetti, la discussione è quali tasse abbassano quest'anno. Primo anno 80 euro, poi quello non gli piace gli 80 euro, dice che non funzionano, la Banca d'Italia dice no ma hanno funzionato, mi interessa, 80 euro. L'anno scorso IRAP e costo del lavoro, cioè abbassare le tasse sul costo del lavoro. Quest'anno IMU e TASI prima casa, e quelli ma non va bene perché l'aveva detto Berlusconi, sì va bene però non lo... Comunque IMU e TASI prima casa. Poi IRES e superammortamenti, cioè l'Italia è nella più, io se non fossi esagerato direi, beh, lo sono, quindi non dirò che è una storica riduzione delle tasse. Il punto è che stavolta lo stiamo facendo. Ecco, la legge di stabilità riduce le tasse. A me questa sembra una cosa divertente, perché è il segno che l'Italia può ripartire. Allora, così Premier Matteo Renzi, ieri ospite di Fabio Fazio, trovate oggi sui giornali buona parte delle dichiarazioni, soprattutto su Roma e quello che capiterà adesso, ma noi ci concentriamo sulla legge finanziaria. Devo dire che, insomma, da quello che abbiamo, dal calcolo che è stato fatto, ma adesso chiederò conferma a Dino Pesole del Sole 24 Ore, che ringrazio. Buonasera Dino. Buonasera. Firma e memoria delle leggi finanziarie, come si chiamavano una volta, adesso le leggi di stabilità. Allora, vediamo se ho capito bene. La manovra da 17-18 miliardi iniziali è già salita a 28 miliardi, ma non perché lo diciamo noi. Nel senso, l'eliminazione... Cioè, se io prendo tutti gli interventi annunciati dal Premier in queste settimane, allora l'eliminazione della TASI, IMU prima casa, terreni agricoli imbullonati vale 5 miliardi, la cancellazione delle clausole di salvaguardia, che è quella fondamentale perché sennò scatta l'aumento dell'IVA in automatico, per cui o reperiamo questi 16 miliardi o abbiamo promesso all'Europa che in automatico aumentano IVA e accise, vale 16 miliardi, quindi 16 più 5 a casa mia fa 21. Poi una riduzione dell'IRES già dal 2016, in realtà se ho capito bene riguarderà soprattutto il sud. Poi la proroga delle contribuzioni per i neoassunti a tempo determinato, e c'è anche un pacchetto di misure per le imprese, quelle che ci aveva già anticipato il sottosegretario Zanetti e che Renzi ha poi confermato dall'Assemblea degli Industriali di Treviso, e mi riferisco alle misure per gli ammortamenti, cioè quando compri un macchinario tu potrai scaricare, se il macchinario ti è costo 100 potrai scaricare 140 di ammortamento, nel senso lo Stato ti dà il 40% di agevolazione, lo scarichi nei modi e nei tempi previsti, no? Nel senso, però invece che dire che l'hai pagato 100 puoi dire che l'hai pagato, adesso traduco male, 140, questo con un vantaggio fiscale per te. La somma di questi altri interventi porta a casa altri 5-6 miliardi, ecco perché diciamo siamo arrivati a 27-28 miliardi. Ho fatto male i conti, Dino? No, anzi, direi che qualche cosa potrebbe anche essere inserita nel menù della legge di stabilità. Ricordiamo che giovedì mattina è in programma l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, peraltro è l'ultimo giorno utile perché entro il 15 va trasmesso il tutto a Bruxelles. Secondo le intenzioni del governo ci sarebbe anche un pacchetto di interventi cosiddetti sociali, si è parlato in questi giorni di un bonus per le famiglie con bambini sulla soglia di povertà, insomma si tratta di interventi tutti ottimi e sacrosanti, ma come per le misure che tu hai appena elencato va benissimo ridurre le tasse, l'abbiamo sempre detto e siamo tutti assolutamente convinti che questo paese ne abbia un bisogno prioritario. Il problema principale, come è del tutto evidente, è come si finanzia tutta questa operazione. Siamo attorno ai 28 miliardi. Ecco, allora siamo attorno ai 28 miliardi. Ora io non voglio fare il lavoro del ministro Padoan, che è bravissimo su questo, però faccio notare che i proventi della spending review, e quindi il lavoro fatto da Cottarelli, poi ripreso da Gutgeld, che a nostro avviso ci è perso molto tempo nel passaggio di consegne tra uno e l'altro. E va bene, comunque quest'anno non si andrà oltre i 6-7 miliardi di euro invece dei 10 previsti, e quindi 6-7 sono lì. Poi però 3 miliardi il Premier, l'ho detto anche ieri da Fazio, se li attende dalla voluntary disclosure, e quindi dal rimpatrio dei capitali legalmente portati attraverso questa ghigliottina, cioè o lo fai adesso e vengono calcolati poi nel tuo patrimonio, se no vai su sanzioni pesantissime dopo, e sono 3 miliardi, quindi diciamo in qualche modo viene riequilibrata il mancato gettito della spending review, e questi sono 10 in tutto. Poi dai margini di flessibilità sul deficit qui inizia la ridda di ipotesi, perché o noi immaginiamo che ci possa essere un margine che vale 18 miliardi e allora ci stiamo dentro, Però 18 miliardi vuol dire che l'Europa ci consente uno scostamento dell'1% del PIL. Beh, in effetti il problema principale è assolutamente questo. Nel documento di economia e finanza di 2 settimane fa, la cifra che il governo indica dalla flessibilità europea equivale esattamente a 17 miliardi. Se si aggiunge anche, se si comprende anche la quota che già c'è stata concessa a maggio, il che vuol dire, tradotto molto semplicemente, che il nostro deficit dovrebbe aumentare il prossimo anno dall'1,8 in direzione, come dicete, del 2,8, perché un punto di PIL tale vale. Il problema però è che non è esattamente così, perché la trattativa in corso con Bruxelles riguarda non tanto le due clausole, quelle sulle riforme e quelle sugli investimenti, quanto i 3,3 miliardi che il governo ha chiesto di poter utilizzare per effetto delle spese sostenute per l'emergenza migranti. Allora, su questo punto da settimane a Bruxelles c'è un dibattito molto serrato, anche perché non sono stati ancora individuati dei criteri omogenei che devono valere per tutti. E dunque è molto probabile, almeno le ultimissime da Bruxelles questo dicono, che i 3,3 miliardi della cosiddetta clausola migranti non ci siano. E allora il vero problema ruota attorno a questi 3-4 miliardi che ancora ballano e che, che il governo dovrà reperire da qui a giovedì. No, in che modo? Non lo so, francamente, perché poiché la spending review si ferma a 7 miliardi, il resto, come dicevi tu, viene recuperato attraverso le maggiori entrate del rientro dei capitali, e si tratta di immaginare un'ulteriore copertura, ed è quello che il Ministro dell'Economia e la Ragioneria stanno cercando di definire in queste ore. Ci scrivono gli ascoltatori se un grosso beneficio non dovrebbe arrivare dal forte calo degli interessi sul debito. Oddio, rispetto all'anno scorso è meno forte di quanto non sembri, cioè quanto rendono bot, BTP e quant'altro. Dino. Sì, è vero, se non che già il documento di economia e finanza ha cifrato ha rivisto al ribasso la spesa per interessi per effetto di uno spread che obiettivamente è calato rispetto allo scenario di un anno fa. E quindi quella minore spesa è già stata incorporata nei saldi di finanza pubblica, dovrebbe essere ulteriormente minore, come dire, quindi immaginare che lo spread si attesti attorno agli 80 punti base, questo al momento non mi sembra, però certamente se ci fosse un'ulteriore spinta al ribasso sarebbe un'ottima notizia. L'altra ottima notizia sarebbe se tutto questo impianto si reggesse su una previsione effettiva di aumento del PIL molto più sostenuta rispetto all'1,4, poi rivisto certo all'1,5, 1,6, perché a quel punto ovviamente più entrate e allora il gioco sarebbe risolto. Allora, insomma, mancano all'appello 3-4 miliardi, diciamola tutta, nel senso che questi dati prevedono già una crescita un po' migliore delle attese, hanno 0,8% del PIL, se non ricordo male nel 2015, poi bisogna vedere come ce la giochiamo nel 2016. No, dico, chi scrive invece potrebbe usare il governo i soldi della privatizzazione delle Poste italiane, ma se non ricordo male, Dino, i soldi che lo Stato incassa dalla privatizzazione delle sue partecipate devono andare per regola europea a ridurre il debito, non possono essere messi in finanziaria. No, assolutamente, non solo per regole europee, anche per regole nostre. Abbiamo addirittura istituito nel 92 un fondo che si chiama Fondo di Ammortamento dei Titoli Pubblici che va alimentato proprio dai proventi delle privatizzazioni, che tutto quello che riusciamo a vendere sul mercato va a ridurre il debito. Certo, si potrebbe dire se si riduce il debito, ma deve essere consistente e di conseguenza si ridurrà pure il deficit, ma obiettivamente si tratta di... Sì, però non lo puoi mettere in finanziaria, chiariamo gli ascoltatori. No, quindi 3-4 miliardi, vediamo da dove arriveranno. Vediamo dove arriveranno, sì, perché in questo momento altre ipotesi non ne vedo, a meno che non si ribalti la situazione a livello europeo, perché è chiaro che dal punto di vista dei decimali del PIL, deficit su PIL, 3-4 miliardi sono circa lo 0,2, adesso vado a spanne, lo 0,2% del deficit sul PIL, per cui se l'Europa ti concede un margine ulteriore hai fatto, altrimenti devi indicare dove trovi queste coperture. Grazie, dunque, grazie Dino Pesole. E adesso da qua a giovedì probabilmente ci risentiremo, Dino, male che vada ci risentiremo giovedì, perché poi si entra nel vivo della presentazione della legge di stabilità. Dico invece a Roberto da Pordenone, che sta scrivendo 82 messaggi al secondo, sempre lo stesso messaggio: ho capito, lei è andato all'Expo sabato, non è riuscito a vedere nemmeno uno stand, la gente era infuriata, bambini che piangevano perché non si riusciva a mangiare, una truffa. Allora, diciamo che c'è troppa gente che va all'Expo, e questa è la critica che dobbiamo fare all'Expo. Vabbè, forse uno doveva andarci prima, forse c'erano periodi migliori per andarci. Ho capito, vai negli ultimi giorni, rischi di trovare la ressa, ma da qui a dire che l'Expo sia una brutta manifestazione perché c'è troppa gente che ci va, assolutamente no, e non sono d'accordo con lei. Traffico, anzi no, meteo sì. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. minuti, la borsa ha chiuso meno 0,75%, però prima di tutto parliamo di chi in borsa deve ancora andarci, ma oggi ha annunciato il roadshow e tutti i dettagli del collocamento, tranne il prezzo che si saprà alla fine. Mi riferisco ovviamente alle Poste Italiane, complessivamente tra i 2 miliardi e 700 milioni di euro e i 3 miliardi e 700 milioni di euro, a seconda che il titolo venga collocato a 6 euro per azione o a 7 euro e mezzo per azione. Questo comunque sarà l'incasso tra i 2 miliardi e 7 e i 3 miliardi e 7 per lo Stato, che andrà, come abbiamo appena chiarito con Dino Pesole, in automatico e per legge a ridurre il debito, non può essere utilizzato per altri fini. Questo vuol dire valorizzare l'intero gruppo Poste, cioè se tu vai a pagare tra i 2 miliardi e 7 e i 3 miliardi e 7 per il 38% e mezzo del capitale, non ci vuole un gran analista per capire che stai dicendo che il gruppo Poste Italiane può valere tra gli 8 miliardi e 10 miliardi massimo di euro. Il roadshow, quindi la presentazione agli operatori, si concluderà il prossimo 22 ottobre, poi lo sbarco o il 26 o il 27 ottobre. Il nostro ospite Maximilian Cellino, che ne ha molto scritto per il Sole 24 Ore. Buonasera Maximilian. Buonasera a voi e agli ascoltatori. E andiamo anche a sentire che cosa è stato oggi dichiarato, visto che oggi è stata presentata la quotazione delle Poste, al di là del commento su Facebook del Presidente del Consiglio, che ha detto: Poste Italiane va in borsa, quella che 10 anni fa era l'azienda conservatrice più corporativa e succube della politica risponderà agli azionisti e al mercato. Anche questo è cambiare verso, e va bene. E invece il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze, Fabrizio Pagani, ha detto: insomma, l'azienda rappresenta il paese, è un collocamento in borsa per chi crede nell'Italia. È un segnale dell'importanza che il governo dà all'accesso al mercato dei capitali, e attraverso l'accesso al mercato dei capitali le società si modernizzano. Inoltre la privatizzazione è sempre un momento per rivedere, riformare quello specifico settore. Va in borsa una grande azienda. Se volete, rappresenta l'Italia. Rappresenta l'Italia perché è il primo datore di lavoro privato, diciamo così, non pubblico italiano, perché ha antenne in tutto il territorio nazionale, dal più piccolo paese fino alle grandi città, quindi ha una rete capillare che nessun altro forse può vantare, e perché è esposta sostanzialmente al nostro paese. E quando ne parliamo con gli investitori italiani e stranieri, diciamo che se credete nell'Italia e nella ripresa italiana, dovete credere anche in Poste. E adesso invece sentiamo l'intervista che ha realizzato oggi durante la presentazione che si è svolta a Piazza Affari dell'offerta pubblica di quello dell'IPO, e quindi il collocamento in borsa, o IPO come dicono quelli che hanno studiato, delle Poste. dicevo, l'intervista che ha realizzato la nostra Anna Marino con l'amministratore delegato delle Poste Italiane, Francesco Caio. Oggi partiamo con lo show e la data per la chiusura, quindi l'apertura, la chiusura dello show e l'apertura della trattazione del titolo è il 27. Penso che però sia un giorno importante oggi per fare anche un po' una considerazione di tipo più generale. Questo IPO, che è l'IPO più grande d'Europa, che oggi è un IPO italiano, di un'azienda pubblica italiana, è anche un giorno in cui l'Italia è al centro dell'interesse degli investitori internazionali. Questo è secondo me il primo grande traguardo già ottenuto. Abbiamo interesse da parte di questi investitori, vedremo come questo interesse si tradurrà in investimenti nei prossimi giorni. Prospettive di collocamento anche tra i privati e poi diciamo i fondi indirizzati anche allo Stato, quanto arriverà nelle casse dello Stato? Le cifre vedremo, le stabilirà il mercato. È importante che lo Stato abbia confermato in tempi molto rapidi e portato sul mercato un'operazione che riguarda fino al 40% del capitale di Poste. Quindi una cifra importante che lo Stato utilizzerà per l'abbattimento del debito, ma come il governo stesso ha indicato, un'operazione che ha un significato segnaletico nei confronti della comunità internazionale. La capacità di un paese di eseguire un progetto ambizioso, sfidante. Gli altri paesi hanno impiegato anni per portare le loro poste sul mercato, noi abbiamo impiegato mesi. E la portiamo con una prospettiva molto chiara di investimenti, di crescita, di sviluppo, di miglioramento della qualità del servizio e di trasformazione. Quindi una bella sfida che per metà, io direi, essere già stata vinta. Questo collocamento in borsa si accompagna infatti anche a un piano industriale, quale? È il piano di trasformazione e di crescita, un piano che vede la Poste Italiane costruire sui suoi asset distintivi, il marchio, la rete, le piattaforme tecnologiche e che in ognuno dei business che noi abbiamo, quello bancario, quello assicurativo e quello logistico postale, degli obiettivi di innovazione, di miglioramento della performance e di ulteriore crescita. Allora, così Francesco Caio chiede a un altro ascoltatore, a parte di non mandare anche lui decine di messaggi che intasano la rete degli sms, poi voglio dire, perché lei dice che quelli che si esaltano per il successo dell'Expo, perché ci sono le file, le code, sono stolti come lei, un'ora di fila per entrare e poi non vedere nulla, però abbia la cortesia, non si firmi Maria, perché siccome la vediamo il numero sappiamo che non è Maria, almeno abbia il coraggio e la decenza di firmarsi col suo numero, visto che se è consapevole delle idee che sostiene, giustamente metta la sua firma, vero? Non scriva Maria su. Allora, Maximilian Cellino, al di là delle vere e finte Marie, qui parliamo di un'operazione, insomma, che dovrebbe essere la classica operazione da cassettista, uno dice le Poste Italiane vivono, ma quali sono i rischi che vedi? E la forchetta è nata, può sembrare normale, ma l'oscillazione è abbastanza diversa, perché tra sei, cioè, non solo per nell'incasso per lo Stato, però insomma dire che tu andrai a collocare a 6 euro è una cosa, a 7 euro e mezzo è un'altra, abbiamo visto nel passato alcuni collocamenti un po' forzati dove si è deciso di dare la parte più alta della forchetta, se non ricordo male Saras, lì fu un privato, però fu un collocamento in cui poi ci fu una difficoltà a rivedere quel livello del prezzo. Maximilian. La forchetta è abbastanza importante, hai notato giustamente delle questioni, insomma, che potrebbe sorgere da qui ai prossimi giorni, fino a che non sarà fissato il prezzo, perché ci balla un 25%, ricordiamo, tra quei 6 e quei 7,5 euro, sì. Non è proprio la stessa cosa, tra l'altro qui andiamo invece a parlare un po' più in generale su quello che è un investimento azionario. Questo che bisogna capire, questo che devono capire le persone che si avvicinano al titolo delle Poste, se non hanno già fatto prima di avvicinarsi a un investimento azionario o comunque in fondi che investono su azioni. Questo non è un risparmio postale, non è un conto corrente, è qualcosa di molto diverso. È un'azione e a costo di essere pedanti e ripetitivi bisogna continuare a dire alle persone che non garantisce assolutamente a scadenza il denaro che si potrà investire in questi primi giorni. Insomma, il lotto minimo balla tra i 3.000 e i 3.750 euro, sono 500 azioni, a meno che non ci sia un riparto. Anche questa è un'opportunità, una possibilità, c'è la possibilità che ci siano tante richieste, ovviamente Poste se lo augura, e che l'otto minimo possa essere abbassato anche a 250 azioni, quindi dimezzato il valore. Al di là di tutto questo, le considerazioni si possono fare. Tu stai parlando di un titolo da cassettista proprio perché abbiamo in mano un'azione di una società che forse è ben diversa da quella che hanno in mente popolarmente, se hai in mente, probabilmente ne avrete parlato, non sono più le Poste di qualche anno fa. Il 70% dei ricavi delle Poste derivano dal business assicurativo, quindi è una cosa ben diversa dalla consegna delle lettere, insomma, dalla posta tradizionale che tutti noi ci ricordiamo, quel business, permettetemi di dire, vecchio tra virgolette. Vale meno del 10% dei ricavi ed è destinato probabilmente ad abbassarsi. Dopo il traffico, appunto, anche la prospettiva che tu già accennavi, che Caio ha individuato nel futuro delle Poste, perché uno compra un titolo non per il valore passato ma per il valore che potrebbe sviluppare nel futuro. 349-238-6666 per i vostri sms. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta Focus Economia. Allora, Maximiliano Cellino, ci chiedono molti ascoltatori, allora, nessuno ha detto che stanno privatizzando le Poste, mi sono subito corretto, la maggioranza assoluta resta nelle mani dello Stato, si va a collocare il 38,5% del capitale, di cui solo il 30% andrà agli investitori, il resto è dedicato anche ai dipendenti delle Poste, però e agli istituzionali. Maximiliano, i piani futuri per giustificare, diciamo, un tipo di prezzo da un lato, e dall'altro qualcuno mi chiede: ho numerosi buoni postali ordinari, potrebbero essere in pericolo. Ma perché in pericolo? Cioè, si sta quotando in borsa, non sta andando a svaligiarla la borsa, cioè, nel senso, si sta quotando in borsa, adesso va ben tutto, però Enrico da Crema no, perché dovrebbero essere in pericolo i buoni postali ordinari? Comunque, Maximiliano. Allora, ci sono un paio di elementi interessanti da rilevare, diciamo un paio di incentivi, di motivi che potrebbero spingere a investire sulle Poste. Una è abbastanza semplice, anche per invogliare i sottoscrittori, c'è a detenere il titolo e non a venderlo subito, c'è anche un bonus, un'azione ogni 20, certo, per chi li tiene e continuativamente in un anno. Per chi non vende per un anno, certo. Per chi non vende per un anno, e il 10% per i dipendenti, per certo, i primi due lotti richiedibili dai dipendenti. E l'altra cosa da rilevare è la politica dei dividendi, cioè Poste, e qui tu parlavi appunto di un titolo da cassettisti, si propone come una società che può distribuire ogni anno delle cedole interessanti ai sottoscrittori del titolo, e in questa maniera potrebbe anche assomigliare più a un'obbligazione, ma ripetiamo, non lo è un'azione. Tutto quello che possiamo avere ogni anno sotto forma di dividendo, poi uno lo può perdere anche sul prezzo dell'azione. Ecco, la politica dei dividendi in questo momento sembrerebbe essere abbastanza piuttosto generosa, nel senso che è previsto che per il 2015 e il 2016, l'esercizio 2015 e l'esercizio 2016, quindi a pagare nel 2016 e 2017, venga distribuito l'80% degli utili realizzati. Qui si apre qualche dubbio, perché siamo un po' tantino, però. È molto, però attenzione, bisogna capire qual è, tanto si parla di 2 anni soltanto, ma poi bisogna capire anche qual è l'utile sostenibile in grado di generare Poste, che nel 2000, ha chiuso il 2014 con un utile di poco superiore ai 200 milioni di euro, nel 2015 e nei primi 6 mesi già sta superando i 400 milioni, quindi bisogna vedere dove andrà a parare Poste da questo punto di vista. Come dividendo poi dato. Come dividendo, e poi l'80% dei quali viene distribuito ai soci, ecco, tra cui lo Stato, ovviamente. È ovvio. Cioè, lo Stato resta azionista. Beh, non è che non si possa dire una cosa al volo prima di lasciare la linea a GR24. Ma no, la dico dopo, dai. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi il premio Nobel all'economia. Una cosa va detta, vorrei concludere su questo con Maximilian Cellino. Ci chiedono da un lato gli ascoltatori se il 30% di collocamento in borsa destinato ai risparmiatori non sia un po' poco nel collocamento, e dall'altro mi stanno scrivendo parecchi, immagino, dipendenti o direttori di banca. Dicendo però mettete in guardia che ci stanno arrivando numerosi risparmiatori e clienti che sono abituati a comprare botta a rendimenti praticamente zero, se non delle volte quasi negativi, no, questa è una battuta, rendimenti vicino allo zero, che adesso vogliono comprare le azioni delle Poste. Chiarite bene che si tratta di azioni, questo va detto, nel senso che non è che siccome secondo le Poste italiane siano dei prodotti, hanno lo stesso rischio di qualunque titolo azionario. Maximilian. Sì, la prima domanda che poneva l'ascoltatore, il 30% del 34,7%, che potrebbe diventare il 38%, fanno quasi un miliardo di euro, anzi attorno al miliardo di euro a seconda della forchetta. Non credo che sia onestamente poco. Sull'altro aspetto non ci sono ancora dati, non ci saranno su come è andata la prima giornata di collocamento, ma dalle domande che arrivano qui alla radio, ma anche su in redazione a noi, alle mail che ci arrivano, io credo che questa operazione si avvia a essere molto popolare. Sono molti che si stanno interessando, e questo appunto impone una seria riflessione, perché molti avranno già avuto a che fare con azioni, molti risparmiatori arriveranno dal semplice risparmio del conto in banca oppure al limite dei titoli di Stato. Questo, ripetiamolo ancora una volta, a costo di essere pedante, è un investimento azionario, si può perdere, non c'è il capitale c'è garantito a scadenza. Il rendimento garantito, insomma, dei titoli di Stato non c'è. Né il rendimento né il capitale garantito. Ora, poi uno può ragionare se è un titolo più, se sia le Poste più un titolo azionario da cassettista, cioè da risparmiatore prudente come altri, e questo sicuramente non è un titolo, o non dovrebbe essere un titolo aggressivo quanto a fluttuazioni, però sempre di titolo azionario si tratterà. Per cui non iniziamo a pensare che siccome si chiama Poste Italiane, se li metto lì sono sicuri, quasi come un'obbligazione. Sarebbe, è l'ABC, ma sarebbe un errore macchiano. Se compri il titolo Poste Italiane stai comprando un titolo di borsa che avrà le oscillazioni dei titoli di borsa, per quanto un titolo come quello delle Poste dovrebbe essere un titolo un po' più tranquillo, diciamo, sul mercato. Vedremo però anche quando a che punto verrà collocata l'offerta, la forchetta, e quindi se sarà sulla parte più alta è lì il rischio poi che il titolo non regga il prezzo o che guadagni poco perché già scontava un prezzo molto alto, come nel passato, come per qualunque collocamento c'è. Grazie a Maximilian Cellino, e adesso il resto dei titoli. Buonasera. Grazie a te, dei titoli di borsa. Allora, della borsa che e dei titoli che già ci sono in borsa e non delle Poste che deve ancora sbarcare: UbiBanca più 1,50, Campari più 1, Fiat Chrysler più 0,80 come Tods, fronte opposto per Finmeccanica meno 3,80, Monte dei Paschi meno 3,70, Mediaset meno 3,30, Prismia meno 3%, Saipem pure, Telecom perde il 2,80% con Mediolanum, Azimut il 2,70 e ST Microelectronics cede il 2,5%. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo una cosa subito, che UbiBanca è l'unica banca che va bene perché oggi si è, perché sabato, scusate, mi è arrivato via libera la trasformazione in SPA, quanto prevede la legge, entro gennaio per le popolari che dovranno appunto trasformarsi in banche SPA a tutti gli effetti. Sì, questa è la ragione che ha spinto oggi il titolo, era un passaggio in qualche modo scontato, certo. Però è anche vero che in questo modo possono affacciarsi sull'istituto un numero maggiore anche di investitori istituzionali che magari prima non apprezzavano il voto capitario, quello in cui a prescindere dal numero delle azioni che si possiedono si conta solo per un voto, mm-hmm. E quindi in qualche modo inizia una fase, ha iniziato oggi una fase positiva, si guarda comunque sempre alle prospettive rispetto a future aggregazioni, anche su questo tema sabato è stato fatto un po' il punto, l'amministratore delegato di UbiBanca non ha escluso che ci sono stati in questi mesi dei contatti, ha fatto anche dei nomi, ha fatto il Banco Popolare, non ha nemmeno escluso come altre volte aveva fatto il capitolo Monte dei Paschi, anche se siamo in una fase ancora assolutamente prematura. Allora, ancora sulle Poste devo dare due chiarimenti. Per quello che riguarda i dipendenti, oggi Francesco Caio, nel presentare il collocamento in borsa, questo va detto, se no l'informazione è incompleta, ha anche confermato, per quello che riguarda le assunzioni, che ha confermato le 8.000 assunzioni, sono già avviate, serviranno a modificare e rafforzare il profilo professionale dei lavoratori. Mentre alcuni ci scrivono sul collocamento in borsa della Ferrari, certo che ne abbiamo parlato e anche nei nostri GR24, è, se vogliamo, da questo punto di vista un po' meno popolare per due motivi, anzi per un motivo in primo luogo, che la Ferrari si colloca in borsa Wall Street, è iniziata l'offerta pubblica, vale circa il 9% del capitale ordinario, anche qui c'è una forchetta tra i 48 e i 52 dollari per azione, e poi le banche collocatrici potranno acquistare l'1%, le azioni saranno negoziate con il simbolo RACE, questo per quello che riguarda la Ferrari a Wall Street. Torniamo invece ai titoli in borsa, ricordavi giustamente di UbiBanca, l'altro fronte riguarda invece Mediaset, meno 3,34%, e soprattutto Finmeccanica, meno 3,80%. Sì, allora, per quello che riguarda Finmeccanica, oggi sono uscite delle indiscrezioni secondo cui la Commissione europea avrebbe avviato un'indagine per stabilire se le compagnie aeree sono state in qualche modo costrette a firmare dei contratti di manutenzione antieconomici, molto onerosi, per far volare i loro aerei. Sul banco degli imputati sono finiti ovviamente i grandi produttori di motori e di aerei, Finmeccanica in qualche modo può essere coinvolta indirettamente in quanto fornisce della componentistica con cui vengono realizzati i vari Airbus eccetera, per cui in una giornata in cui ad esempio anche Rolls Royce a Londra, che fa appunto motori per aerei, ha pagato molto dazio, anche Finmeccanica ne ha risentito ed è stato il titolo peggiore a Piazza Affari. Eh sì, e ancora realizzi, se ho ben visto, su Saipem, meno 3%, sì. Sì, un po' di realizzi anche perché il titolo ha corso molto, in questa prima parte di ottobre aveva guadagnato circa il 28%, nel frattempo va segnalato anche che nel fine settimana sono uscite nuove indiscrezioni relative al riassetto, si parla in particolare di un aumento di capitale che sarebbe da 3,5 miliardi, quindi più oneroso, più grande rispetto a quello che si era fin qui ipotizzato fra i 2,5 e i 3 miliardi e si forniscono anche delle cifre sull'indebitamento che non lasciano particolarmente tranquilli gli analisti, perché sembrerebbe che l'indebitamento a cui è arrivato Saipem è superiore rispetto a quello che gli analisti e gli operatori si attendevano. Migliori e peggiori in assoluto, oggi di Mail Group più 17%, RWE più 9%, Tech Value più 8,30%, I Grandi Viaggi più 8%, Geox più 5,20%, fronte opposto, Giorgio Fedon meno 5%, Digital Brothers meno 5%, Class Editori meno 4,5%, RCS Media Group meno 4%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo il traffico, il premio Nobel di quest'anno che va a chi ha studiato le diseguaglianze, il welfare, la povertà, è uno scozzese, si chiama Angus Deaton, ma soprattutto ha studiato anche gli effetti che le politiche di remunerazione, di stipendi, bonus troppo alti sulla parte alta dei top managers, gli effetti che hanno poi a livello sociale. Lo dico perché abbiamo parlato per anni dei mega stipendi, dei bonus deliranti della finanza di Wall Street e non solo. E l'ultimo caso era quello che citavo inizio programma di Winterkorn, cioè i 60 milioni di euro per l'ex capo della Volkswagen, che sono sembrati tanti anche in virtù dei risultati. C'è poi il tema di fondo di come siano aumentati in questi decenni gli stipendi. Pensatelo, ricordiamo ogni tanto che nel 1971, se si prendevano le prime 100 corporate americane, le prime 100 imprese americane, il rapporto tra il top manager e il dipendente era di 1 a 74. Nel 2007, prima dello scoppio della crisi di Wall Street e della più grande crisi economica e finanziaria del dopoguerra, il rapporto tra quanto guadagnava il numero uno e il dipendente nelle prime 100 aziende americane era salito a 1,235, quindi guadagnava 235 volte lo stipendio del dipendente contro le 74 volte, che già erano tante, degli anni 70. Non c'è nessun manager che valga 230 volte i suoi dipendenti. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Focus Economia. I think it's a terrible mistake to define well-being too narrowly. Penso sia un grosso errore definire il benessere con contorni troppo stretti. Sorgono seri problemi se si tiene conto solo del reddito o se si tiene conto solo dell'aspetto della salute. Altri elementi, come l'istruzione, la partecipazione alla democrazia, vanno considerati per analizzare il benessere. Non bisogna guardare solo ai progressi compiuti o alla diseguaglianza del reddito, perché non si avrebbe il quadro completo. Ciò che osservo è che chi è benestante, chi ha possibilità economiche, ha un accesso privilegiato ai servizi sanitari. Al contrario, chi ha un basso reddito ha più difficoltà. Tenendo assieme ricchezza e salute, si comprende meglio la disuguaglianza che c'è nel mondo e nei paesi. Nel mio libro, The Great Escape, La Grande Fuga, ho analizzato come nella seconda parte del XVIII secolo ci siano state molte innovazioni. Era il periodo dell'illuminismo. Si voleva usare la ragione per migliorare la vita. I nuovi metodi scoperti a quel tempo vennero adottati innanzitutto dai più benestanti e solo dopo dal resto della popolazione. Quindi, quando qualcosa di nuovo viene scoperto, i più ricchi se ne avvantaggiano prima degli altri. Le disuguaglianze dei redditi portano a disuguaglianze nel benessere delle persone. Se si guadagnano 200 milioni di dollari l'anno, si ha un'enorme ricchezza che potrebbe essere usata non nell'interesse generale. Una cosa che si potrebbe fare, ad esempio, è opporsi alla riforma sanitaria, come è successo negli Stati Uniti. E infatti sono state le persone molto, molto benestanti a opporsi alla riforma di Obama. Chiaro, non bisogna generalizzare, non è destra contro sinistra. Ma mi preoccupa questa plutocrazia dove chi è molto ricco e non ha bisogno della sanità o dell'istruzione pubbliche, perché non le usa, fa di tutto contro queste riforme. And very rich people don't need public health care, they don't need public education, they don't use it. They're going to work against that. Oh, così il neo premio Nobel all'economia Angus Deaton l'anno scorso in occasione del conferimento del premio Leonid-Tief. Ringrazio il professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale alla Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a voi. E che nel passato aveva scritto, proprio anche citando gli studi di Deaton, questa fuga, La grande fuga, che non è un romanzo, ma è la grande fuga dalla povertà. Sì, allora, due cose ho capito io. Intanto che Deaton, occupandosi delle dinamiche tra i consumatori, il reddito e le disuguaglianze, ha dimostrato due cose che sembrano banali, però bisogna ricordarle ogni tanto. A, che la disuguaglianza e la riduzione della disuguaglianza e l'aumento del progresso vanno di pari passo. Cioè è inutile continuare a raccontarsi che alcuni possono essere pagati 270 volte i loro dipendenti e questo genera un benessere collettivo. Non è vero. Più riduci queste disuguaglianze, più storicamente, perché lui ha studiato l'andamento di queste economie dal 1875 in poi, aumenta il progresso complessivo di una civiltà. E poi il famoso paradosso di Deaton, vediamo se l'ho capito bene professore, cioè lui dice attenzione che c'è una regolarità nel consumo che va al di là degli shock inattesi sul reddito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che oltre una certa soglia di reddito non cambia il tuo atteggiamento nei consumi. E lui l'ha anche quantificata nel 2009, ha detto oltre la soglia dei 75.000 dollari in America la felicità delle persone non aumenta, perché si sono ridotti i desideri da pagare e non muta neanche il tuo consumo. Ecco perché poi la disuguaglianza di reddito non genera un benessere collettivo, perché superata una certa soglia, una curva quasi gaussiana, tu non vai a spendere, non consumi di più, nel senso, anche se guadagni molto di più. Ho capito bene, professore? Sì, ho capito bene, nel senso che c'è una stabilità dei consumi che in qualche modo è indipendentemente dalle fluttuazioni del reddito, cioè anche se il reddito fluttua con una certa ampiezza e con una certa rapidità, i consumi rimangono nel tempo più stabili. Ma direi che la visione, diciamo, Deaton ha vinto il premio Nobel proprio perché lui è stato quello che ha studiato nel modo più dettagliato possibile, da un punto di vista sia teorico che empirico, quali sono appunto le dinamiche dei consumi e il rapporto, se vogliamo, tra consumi e disuguaglianza e livello di reddito e povertà. L'ha fatto sia a livello aggregato, cioè guardando le fluttuazioni del reddito delle nazioni dei diversi paesi, sia guardando, facendo anche degli studi proprio micro sulle cosiddette, quelle che si chiamano in termini tecnici le household surveys, cioè sono delle indagini su delle famiglie che si fanno soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che servono a raccogliere dati molto minuti per capire quelli che sono i problemi effettivi della, diciamo, della povertà, della disuguaglianza a livello delle famiglie in dimensioni molto diverse. È uno che è riuscito a coniugare appunto il problema dei consumi col problema della sanità, col problema delle politiche pubbliche, cioè è veramente uno studioso che ha adottato uno spettro che va in ogni direzione per capire quello che è il nodo fondamentale che sollevava lei, che è proprio il rapporto tra consumo, disuguaglianza e progresso. Però io una visione un po', lui ha una visione un po' più, diciamo, un po' più positiva sulla disuguaglianza di quella che appare da certi suoi commenti, nel senso che uno che dice anche che la disuguaglianza è necessaria, cioè è insita in un processo di progresso, il progresso inevitabilmente porta della disuguaglianza, il problema è poi quando questa disuguaglianza, diciamo così, diventa stabile e statica e dà ad alcuni delle rendite, dei benefici, ad altri non le dà più senza nessun impatto sulla crescita ulteriore. Quindi diciamo gli stipendi eccessivi in settori assolutamente non produttivi che ricordava lei sono proprio un ingrediente di questa appunto disuguaglianza che si incastra e in qualche modo non genera più progresso. Questo sì, no, attenzione bene, non è che il neo premio Nobel sia un pauperista o un frate trappista, con massimo rispetto, dice semplicemente che c'è un livello di disuguaglianza che non è, mentre la disuguaglianza è da accettare anche perché ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, quelli che vengono pagati di più, quelli che vengono pagati di meno, e su questo non ci piove. Lui dice semplicemente che al raggiungimento di un certo tasso di disuguaglianza in alcuni settori, la finanza era quello che mi veniva più facile, ma potrei anche dire, non so, quella buona uscita che ha avuto Winter con la Volkswagen, 60 milioni di euro, per quanto bravo puoi essere, non si possono sentire, poi che neanche tanto bravo fosse, visto lo scandalo. Lui dice a un certo livello non solo è appunto diseguale, ma è anche non utile alla collettività, perché tu oggettivamente non fai 8 pasti in un giorno, non puoi comprarti 800 case anche se ne avresti i soldi, c'è chi l'ha fatto ma poi non ci vai, per cui non c'è più un ritorno in questa disuguaglianza, che ha anche un suo aspetto positivo nel distinguere i meritevoli dai non meritevoli. Professore, ci dicono alcuni ascoltatori, beh, insomma, ci vuole un premio Nobel per capire queste cose. In realtà la scuola americana, in America sì, noi abbiamo avuto anni di scuola di teoria di Laffer, che diceva che bisognava premiare i ricchi, Bush figlio l'ha fatto perché questo avrebbe generato ricchezza. No, non solo, ma poi la disuguaglianza si autoperpetua. L'esempio che faceva Deaton nel suo commento, no? Il libro era proprio questa, l'idea che in qualche modo gli elettori, che i politici che rappresentano i gruppi più ricchi di un paese, hanno votato per esempio contro la riforma sanitaria di Obama, che era sicuramente una riforma che aveva un impatto redistributivo migliore e che quindi non danneggiava loro, che tanto usano le strutture private perché sono miliardari. Esattamente. No, che ci sia anche appunto una difesa, diciamo, di questa classe che rappresenta l'estrema disuguaglianza, anche perpetrata con mezzi politici. Beh, mi sembra un Nobel quanto mai attuale visto quello che è successo dal 2007 in poi, e visto che, lo dico per inciso, i grandi banchieri d'affari di Wall Street sono tornati a ridarsi gli stessi bonus di prima, quindi alla faccia della crisi. La crisi è sempre quella degli altri. Grazie professor Barbara Navaretti. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.